l'altro. Allora, io mi ricordo questo episodio di 30-35 anni fa, no? Allora, Piero Drago all'epoca usava un Superstar 360 FM col microfono di serie originale. Io lo stavo parlando, mentre parlava, muto, niente, provava, muto, non usciva più di radio. Beh, era il modulatore, che io ricordo era proprio il modulatore, cioè del transistor di modulazione. Così, da nulla, modulando normalmente col mic di serie, uff, bruciato. Capita. Sono stato proprio sfortunato con quell'apparecchio. È nuovo. Però mi dispiace, ma quello non era nuovo quando me l'hanno venduto. È che l'ho preso dalla Spagna, sennò mi devi occupare a Cabo. A me è successo lo stesso con la 48, quello modificato dalla fabbrica. E mi è arrivato, quasi l'ho tenuto una settimana, sono andato a cedere, non funzionava più. Evidentemente si è bruciato il diodo lì e non accendeva più per quello, ci si era rampato. Un diodo M. Natali mi ha fatto incazzare l'apparecchio nuovo. E allora lui ti ha fatto incazzare con tutto questo che l'hai pagato e io non l'ho pagato pure di là, ma stessi. Cazzo, l'apparecchio nuovo in garanzia è da buimi. Che garanzia ti fanno? Lì a chi l'hai bigliato in Spagna manco te ne restituisci. Non ti danno risposta quando glielo mandi. Se si tiene il buruisso. Ah no. Lì la fa ora di. Infatti non compro più nulla. Boh. Finish. Tanto non ne vale la pena. Guarda. Adesso quello lì mi. Lo posso dire a molti, cazzo me lo pongo in macchina. Voluto dal ministro Pichetto Fatino. Lo faccio liberare tutti i canali, tutto canto riposo. E l'omologato mi tengo un bol, ma già laggiù, pure se non funziona. Se non si fa un cavolo come apparecchio. Quella macchina è bella, non piglia né sprato, non piglia rumore, non piglia nulla, è silenzioso proprio. Confermi Marco. Allora, sì, il 3009 è il più silenzioso in macchina. Rispetto a questi sono allucinanti. Ti ricordi quella mattina che abbiamo messo, o pomeriggio, abbiamo messo il presidente in macchina, come l'ho acceso ogni friggitrice. Si sente un bel QRM, a volte anche quando accendi con la macchina si sente il rumore. No, io quello che c'è in macchina non si sente nulla, è proprio una telefonata. No, ma ce n'era uno peggiore. Ti ricordi l'Albrecht 5008 che ho avuto io, quello di quel fetentone toscano? Quello come arrivavi tipo alle luci di ottava, no? Quando è fuori città. I lampioni lì. Mamma mia, si dice questo. Santiago 9, c'è una follia, è come che non avesse filtri di nessun tipo. La friggitrice ci avevi in macchina. Sì, veramente è uno scandalo, dai. Però questi qua già si difendono bene, questi digitali, tutti. Infatti 3009 è più silenzioso, gli metti la NB ed è già più vivibile. Poi, QRM è chiaro, con questa mondezza di semafori strani, di lampioni strani, ne becchi lo stesso, di insegne luminose, però in minor misura, K. Ehi, è vero. Aspetta che sto provando tutti i tasti, ok, che avevo spolverato e avevo mosso i tasti per spolverarli ai lati, dai. Adesso va bene, questo è bellissimo questo apparecchio qua, io me lo volevo vendere. Questo qua me lo dovevo vendere un CB e poi mi ha bruciato, quando me lo doveva portare non me l'ha portato. Ci ho telefonato e mi ha detto, no, l'ho dato a mio fratello, l'ha voluto lui. E quindi me lo sono cercato perché ce l'avevo sullo stomaco, cazzo. Mi piaceva troppo. Eia. Beh, anche a me era capitato in passato che la gente magari ci ripensasse vendendo un apparato. Io ci ho della mano, dice, ma dopo tutto sono affezionato, ho detto vabbè, ho capito, là, ciao. Sì. Gente che non è di parola. Se ti promette una cosa, metto, guarda, te lo porto, come finisce questa storia delle del coronavirus, se non se mi trovano è un casino, non posso cambiare di comune, quindi praticamente stavo aspettando io. Ma ci avevo i soldi già da parte di Marco, non è che li davo subito. Cosa già? Il Luis. Me l'avevano promesso, però poi dice che l'ha dato a fratello perché è piaciuto a fratello, quindi non me l'aveva dato. E allora sono andato alla ricerca, Natali, e ho trovato questo qua che stava vendendo tutti gli apparecchi base, perché è diventato radioamatore e si doveva fare un po' di soldi per comprare altra apparecchiatura. Cazzo, ma tu devi vedere questa vetrina grande, tutta piena di apparecchi base, cazzo, uno più bello dell'altro, senza mai usare, questo non era mai usato, mai stato usato. Figurati. Questo è nuovo, se ti trovi un graffio ti do 100 euro. Figurati. Sì, quando sono così, sono di lusso. Ma? In risposta agli animali? Io no, né da vendere e né da comprare, perché non compro più nulla. Mi hanno, guarda, disgustato in tutti i sensi. Ma io uno l'ho comprato da poco, l'ho comprato, l'ho tutto ripristinato e poi me l'ho rivenduto. Tanto ne avevo troppi, cosa ne faccio? Era bello, bello, un bel apparecchio. Usciva anche bene dopo con quel microfono, ti ricordi, Marco? Sì, quello che ti ho detto prima. Polimar si chiama, non Polmar, Polimar. No, Palomar era. Palomar, esatto. Vai, sei con Cuoma, ne sei. Però tutto quanto ripristinato, fatta nuovo, anche la marron, fazia schifo. A me il marron non mi piace, non è una roba da vestire, da nessun posto, il marron proprio lo odio. Guarda, c'è un apparecchio che mi piace molto, la MLS 200, che poi l'avevo venduto a una persona. E quello lì l'unica cosa che non mi piace è che è marron. L'unica cosa, perché poi come apparecchio è bellissimo. L'MS200 ce l'ho avuto anche io, già era poco bello. Già. Vabbè, era l'umino, non te l'ho giovendo due a te. E buono, non mi rammento. Con tanti apparecchi che ho avuto, mica ne ho avuti gli apparecchi belli. Ma di noi. Avano. Questo qui muore qua. Parliamo su questo naturalmente, è un giorno di festa. Non do più un cacchio a nessuno. Adesso vediamo se rientra anche quell'altro, il grigione. Se te ne ricordi, io l'ho dato a te e tu poi te l'hai venduto a quello che guidava il camion della Mondessa di Ripunti. Lui l'ha dato l'MS200. A lui l'ha dato. L'ha dato a lui. Infatti, casa a me mi ha detto quanto mi piace, dammelo, e poi ti raggiungo per dire venduto. Quello era bello l'apparecchio. Quello era bello perché segnava il canale di continuo, era bello per quello. Ma tutto era vedo, era un bel apparecchio veramente. Tu mi pare che avevi tolto il bip che non ti piaceva, qualcosa del genere. Allora un bip particolare, te lo ricordi? Sì, boh, non me lo ricordo, no. Sì, e cantani e Cassuria, già. Cioè, sono passati, è passata di acqua sotto i ponti. Sì, adesso c'ho poca roba e boh. Marachino, c'ho 23 canali, quartato. Funziona, è tutto, e più ho il Polmar, quello omologato, quello lo tengo come omologato. Poca roba, c'è tutta tirata, te l'hai brutto cuovane. Vabbè, non dice tutto per forza. Tutta tirata ce l'ha, poca roba gli è rimasta, tutta ce l'ha tirata. E poi tu dici, a me che sono cuovane io. Come non dice tutto, non c'ho altro. Ah, quel ricevitore c'ho, ed è sudato, non so come manca cucendo, figura di un po' garido. Ma che papà? Canto mani rompido di cattoli. Papà. Manco più ascoltando sto. Che ho acceso poco fa, era sospetto qua. Non è una. Perché l'ho coricato. È così per me. Ma me la fatti più nulla, davvero, la verità. Infatti cosa compro a fare? Non sto né ascoltando né nulla, entro qualche volta qua e boh. Infatti, anche io rischio vittorio, sto usando in bagno quando mi faccio la doccia per ascoltarmi la radio, boh, basta, non lo so copiato, ed è bello, il mio è bello, eppure non, boh, non mi interessava mai più come prima, prima c'era più roba da ascoltare, più si stava meglio. Ma sono entrati chi di chi non fanno i rapporti, dimmi. Che vuoi che ti dica? Affidabile, me ne è sceso, tutta la fantasia me ne è passata. Ma ho l'età, i dispiaceri, i rompimenti di scatole forti che mi hanno dato. E adesso c'è anche questo 3009 mi si è crepato. Il 3009 più la lavatrice, no, bisogna vedere se ce la devo rampare e me la devo comprare a nuova, c'è la lavatrice, c'è bloccato Rugestello, si è bloccato, chissà cosa male su ci va. Buonasera. Ma non l'hai presa nuova la lavatrice a Tali? Ciao te. Nuova l'avevo presa, mi si è bloccato il gestello, bisogna controllare, vedi cosa male su ci è successo, se no mi tocca comprarmi nuova buruvisa e sono a Fredinà. Una si deve incazzando tutte le inizi cose tutto ancora. Adesso domani chiamo per vedere se si può aggiustare o se me la devo comprare nuova. Ma non è in garanzia ancora? Ma io non lo so neanche se è in garanzia. E nuovo da poco l'ho presa. Mi hanno detto che lavava anche bene la roba e tutto quanto. Avanti tu. Cappa, ciao Gianni, ciao Natalino, ciao Marcolino e ciao Luca. Ciao, ciao Tonino, buonasera. Ciao Tonino, buonasera. Che si dice, che si dice? Ciao Tonino. Ciao Luca. Che si dice? Luca, tutto a posto, sì? Sta a posto, no? Una parabola. Di la verità che tu volevi copiare a Nasone Falcone. Sì, ci sono, ci sono. Dai, che scherzo. Dai, spero che ti rimetti subito quanto prima. Non penso che hai problemi, dai. Ormai più l'hai fatto. La cura devo fare adesso. La cura, Torino. Una bella spesetta. Tutte le cose così, purtroppo, Lu. Io lo stesso ho avuto 20 giorni di crepuntura alla pancia dopo l'operazione, per carità, in quanto sono stato male. Ma piano piano poi, grazie a Dio, sono passati già 2 anni e sono meglio 100.000 volte. In tutte le cose che uno ha qualcosa, poi ovviamente o si opera o si cura, eccetera, le cure sono sempre quelle, capito? Devi pazientarsi e poi vedrai che tutto va per il meglio. Hai fatto una cosa giusta, che hai pensato giusto di operarti, eccetera, eccetera. Ma è meglio così, dai. Sì, diciamo, è più l'ho superato. Va bene così. Ma Marco non c'è più. Cosa? Ho detto Marco non c'è più. Ah no, è uscito poco fa. Figlia, scusate, sono al computer qua, ce l'ho qua davanti e sto cercando di configurare una cosa. Riprendete, ciao Tonino, ben entrato. Ciao, ciao. Bene, meda, Natale, via. Sì, via, via. Canta insieme a lui, quindi. E va bene, così. Infatti, ne ho le scatole piene di tutto e di tutti. Sul lavoro. Caro Gianni. Sul lavoro. Adesso non so se tenermi questa roba qui o se vendermi tutto e boh. Perché proprio se vedo che non entra nessuno, piglio, pongo tutto su internet e mi vendo tutto. E quindi se c'è magari. Almeno se mi si è malato il televisore, insomma, un po' di tutti di più. Ma ho dovuto prendere il televisore nuovo. Quello grande già. No, quello che mi avevi aggiustato tu, non teneva più le memorie, ogni volta che lo spegnevi dovevi ripristinare tutti i canali. E poi praticamente ultimamente andavi a ripristinarli e non ti dava i canali, faceva la ricerca e poi i canali non apparivano. Alla fine mi sono rotto le palle e l'ho preso nuovo. Mi ho preso un Samsung bello, grande. Già, lì dovevi mettere il decoder esterno. Il decoder esterno c'era. No, proprio il decoder, lui in TV. Sì, vabbè, l'ho cambiata, tanto ce l'avevo tanti anni, poi con la televisione, mi ricordo, l'avevo presa con i punti della S, non ti dico altro, era un LG, era buono, però vabbè, aveva i suoi anni, ho preso uno con le decodere il corporato, così almeno non c'ho mille cose in mezzo alle scatole. Quanto costa già una TV così? E più di 200 euro l'ho pagato. E vabbè. Ah, io c'ho la scorta. C'ho questo 40 pollici, c'ha il decodere esterno, ma la verità non me ne dà fastidio. Perché purtroppo c'ho il problema al connettore d'antenna, saltavano i canali. Adesso sto usando questo qua. E poi ne ho altri tre di scorta. Sì, anche questo qui non te leva più la memoria, tu la spegni, ti fai da fare accendere, c'era la neve. Non c'erano più canali che tu avevi sintonizzato. Vabbè, poi c'aveva un mediano, io ti parlo, avrò avuto una 20-25 anni col televisore. Certo, ma ti ha fatto tanto, va, va bene. L'ho avuto anch'io un televisore che ho preso da una signora dei punti, bellino, carino, con il decoder incorporato, non era molto grande. E dirò che sì, lo stesso difetto, Gianni. Lo spegnivi, mi venivo a memorizzare tutto quanto. L'ho regalato a Manuele, Ginko. No, figlia Dio. E poi non so che fine abbia fatto. Sì, e poi ultimamente andavo a sintonizzarli, faceva la ricerca, si vedeva la linea che aumentavano, che trovava, che cercava i canali, però non apparivano, capito? Faceva tutta la ricerca e poi non appariva, metteva a far Napoli. Siccome io il televisore quando mangio mi guardo il telegiornale, tutto quanto, mi serve un televisore che funzioni, no? Che divusa a sillami, a mettere il menu, eccetera, eccetera, no? Io il televisore che l'accendo e si vede quello che voglio. Cappa. Io ho andato a Luca a farlo vedere, dice non c'è niente di televisore in casa mia, boh, si curava, non ha preso una cosa. Comunque non lo fa più Luca, perfetto, quello 40 pollici. E niente, cucina c'è quello che ho comprato, 60 pollici messo a parete, grazie a Dio, funziona bene. Quando si faccia, si rabbia le luci per recuperare il giornale. Avanti, andata lì. E io non sai tutti che aspetta. Cazzo. Una poco rubricone il ferro nuovo, mi avevo bigliato, la lavatrice. E ora mi sei imbarrata pure la lavatrice d'ora. Ed è nuova, amico. Adesso bisogna vedere cosa me la sortea. Cosa c'ha Natali? Sei nuova, te la devo cambiare. Cosa c'ha Natali la lavatrice? E il cestello che non si muove liberamente, però non so adesso, mi hanno detto quelle nuove te la devi rampare, ma cosa non si può accedere dove si deve cambiare il cuscinetto, non so, adesso vediamo un po'. Già, domani facciamo e abbiamo a vedere se si la devo rampare o se me la devo, se mi la bussa con sa. Difficile lì, quella zona lì molto difficile, solo il tecnico, solo chi ha la testata a mano ti governi, fa un sacrificio e te la bilino, così c'è anche la garanzia. Sto già mettendo in conto di comprarla nuova. Le gasi vanno lì, siete tutto il casino. Io da poco l'ho presa, è la mia ex, una lavatrice Candy, 8 kg, un po' incorporata di roba, nuova, a risparmio a casa, se l'ho pagata a 299, 300 euro, dai, troppo bella, silenziosa, mi ha detto, è perfetta. Sì, su quel prezzo lì costa, ne allora? L'ubricorifero gas qui su mi si era praticata la cerniera di Raianna proprio. Nuovo mi l'ubricorifero. Si era giù dovuto rampare. Di mani, sì, dammi. E questo lo stesso è di quelli lì, perché a me mi serviva il congelatore grande per poter mettere un bel di roba. E quindi mi l'ha giù dovuto comprare a preciso. E costano una barca di soldi, cioè queste cose, un televisore nuovo, vaggio, insomma, già ne ho speso soldi. Ma poi fare tutta apposta, mi quando si passa una cosa poi viene tutta a rotazione, è sempre così successo. Io ti dirò che ho rimediato il tutto. Allora, ho un frigo normale fuori sotto la veranda, e funziona bene, sia il frigorifero che il freezer. Poi c'ho il frigo grande in casa, che già uno sportello enorme che è solo per il freezer e sopra per il frigorifero. E in più mi sono preso il pozzetto. Io, grazie a Dio, come frigorifero sono ok. Poi il resto, penso che vada bene così. Non, poi il fatto che stai parlando un po' canzi, stavo ascoltando una taricca, non pareggio più nuda, che deve dare. Io lo stesso. Ho speso quello che ho speso, boh, basta, ho tutto. A volte manco nel centro baracchino che sono andato a fare una cosa e l'altra, arrivo tardi, non c'è manco gana, fa ditti. Però io ho tutto, sto bene così, non voglio più niente. E non compareggio più nuda. Scusate un attimo, mi devo spostare, riprendo subito. Scusi, se non compro un baracchino. No, boh, basta, già, basta così. I baracchini già lo sai, ne ho in tutto 2, 1, 2, 3, 4, 5, boh, finito. Basta. Io come te ne ho 5, solo che a casa non ne ho, c'ho solo baracchini, boh. Io c'ho anche un piccolo ricevitore, piccolino. E vabbè, no, boh, basta, non ne vale la frequenza, capito? Basta così, intanto pare sempre sul 10. Nada, beh. Avanti Luca. Ah, io ne ho 2 apparecchi, c'è questo qua e il Typhoon. Io ne ho 5, lo stesso. Arriva tanto le switching che saranno una meraviglia, tutti che si lavano, non lo serve, non lo serve, perfetto. Quelli da 20 euro, 25 l'ho pagato, boh, 50 ampere. Io sono da 50 ampere lo stesso, l'avevo preso da Fabrizio quando gli avevo ordinati per i ripetitori. E poi 20 euro l'avevo pagato da 50 ampere, va benissimo. Non ha manco la ventola fastidiosa, là. Allora, la mia era fastidiosa. Gli ho messo una resistenza e gli ho calato la velocità. Si sente? Quasi niente. Vabbè, c'è anche il computer attaccato. Invece se c'era, se era normale, si sentiva un bel fastidioso. È giusto. Sì, non li che fare così già. Ha detto giuro, metti questa resistenza e ti diminuisce la velocità. E vabbè, se ho mal di testa, porca paletta, va. Ma io ho quello che mi ha dato Ginko, mi aveva fatto scambi eccetera da 32 ampere con ventola strumento e poi metterà anche la cinesia davanti, ma tirò la ventola, manco la sento, è perfetto, è per quello non mi lamento. Poi un altro mi aveva regalato Franco 12 ampere massiccio, enorme, bello, anche quello funziona bene. E poi ne ho 2 di quelli che avevo preso dai cinesi che non sto neanche adoperando. Ma con le switching? Cappa. Ma io c'ho quello. Praticamente mi sono messo le bananine dietro, io non c'ho gli attacchi davanti, è tutto modificato, il tastino accendi e spegni, c'ho il tastino per escludere la ventola, si va di lunga, il cavo passa dentro, l'alimentazione. Beh, se avete le modifiche è meglio, perché tutto quanto l'ingresso della tensione è davanti, capito? Anzi, quello a fare in plastica e devi fare tutti i contatti, per carità, ma... portata 13,8, perfetto, avanti già. Gianni. Un secondo che stanno a prepararmi, che sta venendo gente a casa, io sono con disabili. Tutto nudo, sì. Siete come a dia, voi prendete ma sono quel cazzo di gocce, ma quelli con lo spray, che serve per tenere umido il naso. Insomma, le vostre amare chi sono mercoledì, speriamo, ma giovedì. Comunque il caffè a me non mi è piaciuto nulla, nulla, tempo vero, vento, grido, ridasso, per carità. No, va male. E quindi niente, bisogna che accendo un po' di baracchini, specialmente per i 3 canali, che è bellissimo, è molto vecchio. E tengo un po' acceso, perché pure a tenerli curati va a finire che il bus si guascia, raga. E il telefono l'ho più acceso, infatti mi sono dato problemi. E domani mattina lo accendo senza usarlo, faccio scaldare un po', mi do corrente. Poi c'ho l'alimentatore da 25 ampere della ZG, questo che si pesanti, però già è buono, ora funziona bene, perfetto, a trasformatore. No, io ne ho uno da 15 ampere, l'altro 25, quelli dei cinesi. Non mi hanno mai dato problemi, col test l'ho regolato a 13,8, boh, perfetto, boh, basta. E niente, i dati sono proprio non decinesi. Ne ho due di quelli, sì. E ti lo farò bene. Ma però, sto sempre usando del Galaxy, noto, mi trovo bene, Luca. È l'unico, boh. Ah, sei andando il Galaxy adesso. K. No, dabbè. No, io al 3009 va da Dio. Io con gli altri, boh, non lo so. C'è quello che c'aveva prima Natalino, che aveva dato Antonello, che aveva venduto a me, con 10 metri radio. È bellino, c'è un po' di canale, tornato. Non mi trovo, non mi piace. Boh. Io al 3009 mi trovo benissimo. Adesso va anche sui 10 metri. Certo, se detto, riesco a fare lo scambio. Perché è messo a parte, non ho più accesso, boh, un casino, è tutto in base ai memori e quello, quell'altro, mettere i menu, che casino, a me oggi non mi piace. E si dica, buona macchina. E oggi non sei uscito tu? Non posso uscire, perché ogni due ore devo fare il lavaggio. Ho capito. Va bene, comunque, sei un po' meglio adesso, dai. Insomma, adesso mi ha preso questo cazzo di mal di testa, boh. Ti hanno addormentato tutto, sì. Esatto, mi hanno intubato anche. E beh, quando addormentano tutto, come a me lo stesso mi hanno intubato. Quante ore sei stato? Allora, io oggi sono sceso alle 10, in sala operatoria. E sono arrivato alle 3 in stanza. Però dice che è durata un'oretta l'operazione. E io prima di andare nel disco mi hanno tutto addormentato, sempre fuori. Un'ora e mezza è tutto, ero già in stanza. Mentre la seconda operazione, praticamente 7 ore. Fa che dai la gola come ce l'avevo. E sono io. Poi non mi hanno levato i tamponi. La verità mi è passato. C'è questo cazzo di tavolo, un bel lugo nel naso, guarda. Mamma mia, per carità. Mai più. Oh. Purtroppo quando è, bisogna fare che così. Io lo stesso, la prima volta che ho fatto un'ora e mezzo, ho detto, ma è una cazzata, io vado a non operarmi perché giustamente la piossa come Manuele. Detto, è una villeggiatura, da un'ora e mezzo già fatto le balle. La seconda operazione era più lunga, molto lunga. State bici, è vero che mi ha fatto 3 tagli, 2 da rido e 1 da lancia alla banca, pare ha fatto un taglio di cesario. 7 ore, a me quando mi hanno, il giorno prima, il domenica sera, mi hanno segnato il penale che dovevo aprirmi, io la notte ti giuro, io mi andrò, mi rifugio, non mi opero, mi ne apri la banca. E poi ho pensato che sì, ha giovato tutto il viaggio, giunto in occhi. Tra poco vado in pensione e dopo che mi ha con le stampelle, no, ormai sono in gioco e continuo a giocare. E così mi sono operato, mi sono fatto coraggio e via. E idem io, che sto sempre con questo cazzino su chiusa a forza di cortisone. Poi ti ho detto anche lui, non puoi stare così. Mi sono fatto coraggio e via, dai. È stato all'intervento, mi sono accorto di niente, boh, non ho avuto paura, nulla, sono sincero. E ho fatto un po' di afflebbi, un po' di buchi nelle braccia, vabbè, comunque. Oi capo, ho cambiato il microfono, com'è lungo questo qua? È il suo originale? Così, quella meglio l'altro. Va bene. Dov'è? È più ingombrante l'altro, capito? Tocca tenere in mano, invece il microfono palmare, quello più leggero per tutto. Ah, beh, certo. Ma è brisido! Beh, ciuffolo! Beh, cicomì! Ah, sì, buonasera a tutti e due! Cosa mi raccontate di bello? Ah, Gico, tu sì che mi cambi i nervi. No, e tu mi cambi i nervi, che bello! Naso! Io nulla, Valua, gli devo raccontare, ho fatto un intervento, ero ricoverato una settimana. E già dico che mo che sono alzato, io avevo un naso trovato e fasciato. Meglio un naso con un guru. È vero. Cosa, Valua? Adesso già è vero, vai Tony. Allora Luca non è che era all'ospedale, quello su Facebook, lui ha avuto un incontro e pucinato. Picchia, sa vero che c'è, mamma mia. Proprio un incontro. Oh, yeah. Casino, vabbè. Dunque l'ha detto anche Gianni, mi, senza mai babbare più vizzino, e quindi, e tutti ci è meravigliato che ti agito così. Sia molto molto più giovane senza barba, ti fa più grande con la barba. Vabbè, se mi piace, devo su. Piace alle donne con la barba, capito? Allora fa più macio diventa Luca con la barba. Ma più macio, più cosa, Non più macio, più mascolo. Ma vabbè, io uso un altro tipo di barba. Tu sei un pallello, altro è barba. A me chiede, ma l'hai detto Monica, Ma cosa sei? Anche però su dietro ci mi faccio anche le treccine, cosa fuori? Io sono tutto peloso. Come piace a me. Comunque bene mi ascoltate, sì. Sì, con le orecchie, forte come sempre. E bello, bene mi ascoltate, sì. Non forte e chiaro. 9:10 ma non è, ma è cantenna, sono le pulcine la sì. No, non è le pulcine, sempre ridi, queste pulcine. 9:10, perfetto, guarda. Ma sei con l'antennino, siamo al solito posto. Sempre lì, Va troppo bene. A bomba arrivi. Casa. A bomba arrivi, ma non è. Dentro casa non c'è più, è fuori l'antenna. Sì, ma io avrei messo una mattina 5 lì. Sì, sarebbe un chiamato, ma lo sai, niente, se la voce dell'abbattimento. No, dove è adesso quell'antennino? Metti la mattina, non ti dice di cosa. Cazzo. Cosa hai fatto, Manuele? Ci nutta. Oggi sono in riposo, sai, ero stato già in servizio a quest'ora. A lavorato stai? Sì, assicurato? Sì, sì, e beh, lui deve lavorare assicurato un po' da malgrammito. Dove sì? La roba lì già bloccata. E dove sì? Allora, ieri ero vicino al bagno, poi l'altro giorno ero a Fiume Santo, alla centrale, e un po' ogni giorno cambio posto, va. Arriva già in macchina. Per forza, cosa arriva? La benzina ti viene rimborsata? Sì, ti dà un tot, ti dà di benzina. Ho capito, per te se te travaglia, ma tu sei già? Una settimana. Una settimana? Sì. Ho capito. E pensate che ogni mese munga. No, già pare. Adesso fa un po'. Facciamo anche i concerti nello stadio. Siamo andati a divisa, c'è, sì? Sì. E va bene, dai. Lasciate lavorare, avanti tu lì. Gianni, ci sei? Gianni, stava venendo gente, dai, da disbicchini. E niente, ma lui si è messo anche su coso, su Facebook, la vendi sulla macchina. Ma lui, ma chi è che ti ha ripreso quando ti avevi davanti la macchina? Sì, caffè. E c'è musica? Boh. Mi ha coperto. Hai dato fastidio un po'. Stavo dicendo, Manuè, sono passato da te. Ah. Ho detto, chi è quando tu ti hai lavato la macchina, chi ha fatto il video, chi è che ti ha ripreso? La magista. E il comacco. Disco dance. Cazzo, vabbè, qua non vedo nessuno in radio, vai a venire che sono un gatto. Adesso lo passo, Marco. Sì, tu sì, qua è 9 solo, a voglia. Da te, Luca? Sì, già passi, tu li passi. Ma non sai che cazzo la casa di Lugazza, vai. Io ho aumentato il watt del baracchino, col massimo che c'ha, e ho cambiato il microfono, messo l'altro. Ma vabbè, ma noi, da te non passavo. Adesso sì. Perché va nuda di fa, capito? Ma se non si vuole fare due chiacchiere, deve essere questo qua imbecille a mettere musica. Per carità, con lo sgama non ci rimane male. No, lo so, perché... Cioè, non ho niente da fare, ecco. A disturbare chi si sta facendo due chiacchiere. Hanno ragione io di accendere poco il baracchino, me ne ha fatto assai, ma Giovanni Sagomaro, io dico questo, che domani se vuoi scopro chi è, si gioco la Ianna, non dico altro, basta. Io lo passo lì rispetto a Tonino. Qua sì. Ma lo bruci Marco, lo annienti, va. Arriva la braghetta, via, e lascialo fare, dai, se non è ancora di... Fazio, Marco. No, da Tonino passo. Sì, qua passi, Marco. Sì, vabbè, c'ho 50 watt circa, No, io ne ho 12, con il baracchino. Che mondo è fatto sono? Sono sganciato, perciò vedi un po'. Perché c'ho l'antenna buona. Io con vicinette sto uscendo. Io a te ti disturbo un pochettino, mi Luca, però passi. Sì, ma sono sganciato, se aggancio mi faccio un baffo. E io a passo io. Non l'ha messo ancora. Ascolta, passatevi tutti. Ai, ai, fiorellino, caro. Ehi, briciola. Io briciola conoscevo un cane. Era talmente minorito, lo chiamava briciola, ca. Bebù. Andiamo bene, andiamo, bubù. Bubù. Andiamo bene, andiamo, che ti auro. Adesso devi tu, capo. Vabbè. Gianni, deve essere che la gente ospiti. Guarda, se sono ospiti femmine è rimasto nudo. Luca, riprendi. Aspetta un attimino che sto dietro. Sto leggendo le prove buone, pensando che mi devo fare gli sciacqui con il... come si chiama? Con il... ma... soluzione fisiologica. Cappa. Andare. Ok, mi ero ritratto la tariffa. Sì, mi ero spostato che avevo una discussione qua. È urgente, quindi mi sono dovuto spostare, ma passate tutti qua, dai, non c'è problema. Ok. Allora dimmo che tu avevi una discussione a tre, a chi lo cuoi tu non era quindi dov'è. Beh, siamo andati, Emanuele. Lì ci manca sempre, boh, a mangiarsi buone. Questo, Emanuele, non ne posso fare né casa né lana. Hai detto, apro un frigorifero, ecco, ma cosa butto la baracchina in cucina. Apro un frigorifero e magna. Lascia dire, affittendi da città a voci. Oh, lo sapete che io in camera, nel camera da letto, c'avevo un friggerino personale, indovinate per cosa? Frigelati. Esatto, me l'ero preso solo per avere i gelati in camera, in quantità industriali, coni, coppette, il croccante, tutti i tipi, gelato biscotto. E lo fa, ma ti vuoi ingrassarti voi? Mi fate male lo gelato, ti fate ingrassarmi. Lo so, ma tanto ormai fa tutto male il cibo, tutto quello che piace fa male, però lo uso solo in estate, e solo in estate lo attacco, se no la bolletta anziché 400 euro arriva a 600 euro. Caipetta. No vabbè, comunque 2 mesi fa 400 euro quasi, 3,98 spiccioli, adesso 3,45. Prima non era così, c'era la stufetta, la usavamo anche prima elettrica, ma non era così, arrivava, non dico la metà, ma 200 euro così, 2,10, ma adesso proprio hanno aumentato a sangue le tariffe. Ma è vero che il governo non mette dei limiti, cosa che dovrebbe fare? Per evitare speculazioni il governo dovrebbe mettere dei massimali oltre il quale non puoi andare, invece non gliene frega niente. E allora io ho saputo che le bollette di luce aumentano parecchio perché ci fanno pagare anche gli utenti che non pagano, quelli proprio che non pagano niente, si giambano eccetera, cambiano nome, fanno quello che vuoi, insomma, allora loro dividono tutte le bollette d'Italia e rientrano. Praticamente dobbiamo pagare la luce che non pagano gli altri, bello, bello. Beh, era detto anche la televisione, l'hanno detto, ho capito. Avanti, avanti, Luca. E anche qua è arrivata la bolletta, questi 200 euro. A me 3,50 ha fatto il conto. Vabbè, io ho usato quello scaldino a 2 kW, Era qua in campagna, era un po' di freddo, la verità. E lo so, ora è acceso. Vabbè, e vabbè, avanti, Natalia. Cosa vuoi che ti dica? È un macello, qua in Italia è un macello. E poi non parliamo della sanità. Quella vuole presa e buttata alla mondezza. Ecco, ma così io sono andato a operarmi fuori i continenti, noi in occhi. Beh, non parla più nessuno, ma non è sparito. Io stavo cercando se un cavetto adatto, volevo provare a programmare questo apparato, ha delle funzioni nascoste che però senza il computer non le puoi attivare. È un macello e mamma mia, so già che ti prende male, capito? Quando poi vai devi fare prove contro prove. A me piace il tuo bidibidibi e c'hai io, Marcolino. Questo è uno dei Roger Beep. Ne ha 5, vabbè, tre sono brutti, due si salvano. Mi avete detto che era un malacchio, c'ha un bel po' di canali. Questo? No, questo ne ha 40, però questo ha lo stesso bip di quelli che ne hanno 400 di canali, sempre CRT, la marca è uguale. E quelli 400, praticamente quante bande c'ha? 7, 8, boot. Allora, uno ne ha 10 da 40 e l'altro pure, sì, 10 bande da 40, mentre l'HR 5005, come quello che hai tu, ne ha 6 da 60, 6x6, 360 canali. Addirittura il President McKinley, quello piccolino però che c'ha tutto, MFM, SSB, autoascolto, quello mi pare abbia addirittura 12 bande da 40, infatti fa dai 12 metri amatoriali fino ai 30.105, praticamente fa da 24.7 a 30.105. E un bel sono, un bel. Gli dico quello 10 metri radio, ma ripeto, siccome tutto quanto è tra sul menù, io lo odio. L'ho comparato ma ha giocato male, se mi è messo una parte. Però guarda che il menu lo usi solo la prima volta, tipo se ti vuoi regolare il bip, poi non lo tocchi più il menu, mica che intanto va sempre a manetta. Tutto il resto c'hai manopole frontali, per fortuna, e quei tastini in alto a sinistra, boh, non devi toccare altro. Sì, ma è complicato, capito? A me a ciofugliare in chiave, secondo cosa sbaglia, poi non esce più casino. Ma cosa devi inciafugliare, Doni? La giubilizzo è facilissimo questo. Il ministro della Repubblica Italiana, quindi... Il menù lo devi toccare una volta sola e boh, cavolo. È facilissimo a confronto a quelli che c'ha Marco. Quelli lì sì che sono complicati. Natali, passagli il manuale in italiano, quello dell'Intec, che è uguale. Ce l'hai di nuovo, io ho mai avuto, come l'ho preso poi, la sbuccia la marcia, l'ho mai modulato qui, ma dimmi. Io se riesco a fare scambio lo do via subito. E chi su buon paburu un bel? Me l'hanno anche detto, però buh. Però buh. Iuia. Questo qui mi guarda, c'ha il bip, lo vedi il bip? È piccolino, E l'ho regolato io, ma lo devi toccare una volta solo, da voi chi ce lo dà su? E buh. Mi bisogna conoscere, te le bevi, con lo gax, è tutto normale, tutte manopoline, tassine e cose, boh, basta, non è tutte e tre i menù, chiede che dà, mamma mia. Poi che lo devi toccare una volta solo, poi le altre cose sono tutte sul pannello, non devi toccare nulla, almeno una volta solo devi regolare. Di brutto c'è che devi regolare il machigain, devi regolare dal menù, rubo una manetta a 63 come entra giù bocchio e poi il bip ti puoi regolare, cosa devi regolare altro? Non devi regolare altro, va. La potenza si regola dalla manopola. Niente, è più forte me, tutto niente, lo svitero non ce l'ha, è tutto frequenzino, è tutto digitale, chiede che d'altro. Niente, mi sono pentito averlo preso, la verità, Natali. Sai qual è il pillonfio? Allora, il presidente è il pillonfio, perché ha solo quattro tastini frontali, a parte due o tre manopole, quattro tastini frontali, ogni tastino ha una funzione tripla, se non quadrupla addirittura, e c'è una prassi per attivare ogni funzione di ogni tastino, quello sì che è un casino. Sono rientrato. Cappa, e avete parlato in due con Natalina. Natalina, si è passato malissimo. Perché sono con due vatte adesso. Ma lo vedi? E c'ho anche... Non lo metto più a 5, non si sa mai. Avanti Gianni. Non vedono più, mi hanno fatto preparare tutto quanto, hanno avuto un imprevisto, non possono venire, vabbè. Tirami da lì luce, almeno me ne sto rilassato, non sto a stressarmi. Qua stiamo parlando di apparati. Niente, io ripeto, a fare scambio lo farei ben a occhi chiusi, beh, pari più o meno tipo di baracchino, capito? Io ho il baracchino 10 metri radio, quello nero, riuscire ad entrare nel menù è complicato, per me no. Per me è complicato, per voi non è complicato, buon per voi, io non vi riesco. A me mi è antipatico buffo. Dalla Tarino te lo sistema lui, te lo fa, te lo mette lui a posto. È tutto nero, a me non mi piace più. Tutto nero, come tutto nero? È tutto nero. A me piace quello cromato, e c'ha un colore diverso, tutto quello, il bar che è tutto nero. Frontale, di fianco, né, tutte le luci niente. Sarà fascista. Che fascista è? Ah, tu mi piace, mi commentero il 2009, capivo io, mi. Come te chi su normale dice gli piace, non gli piace perché c'è il menù. Lì è dopo lo smitter normale, capito? Questo ti misura le stazionali, tutto. Però a lui non piace così. Io perché sto usando il Galaxy? Perché è tutto un tubetto, smitter giganti, milli, tutto, segnale, SBVR, è tutto. E c'è poco da manovrare. Invece Indom, mamma mia, entra nel menù, se sbaglia, no. Poi se sbaglia c'ho che qualche tasto è un casino. Io l'altra volta ti giuro, ho sbagliato, ho toccato un tasto, sto parlando con Marziano. Se non lo conosci, sono rotture di palle, anche io ne ho avuto uno così, col menù e tutto quanto, però una volta sistemato ne ho seguito tutte le istruzioni voce per voce, una volta sistemato non l'ho più toccato, ho lasciato di quel colore perché c'erano 5 colori, quello che ho dato a te. Cioè a me? Il Cobra. Ah, no, sì, quello era piccolino, però dai, chi c'è più maduro? Non vuol dire, ma aveva il menù anche quello, era da regolare dal menù. E vabbè, comunque, già se tu prendi le istruzioni, un po' di pazienza, voce per voce, te le leggi e te le sistemi voce per voce, fai tutto. E vabbè, no, nonna Pogana, Marco lì, ripeto. Io. Vabbè, ripeto, i menu magari li regoli all'inizio, solo la prima volta, però è vero che anche le funzioni frontali, i tastini sono ugualmente doppia funzione, anche in quello che ha Nattarino. Mentre, che ne so, il 3009, il Galaxy, c'ha quelle levette belle, no? On e off, tipo più 10 kHz, beep, on e off, è più semplice, capito? E infatti, quelli, chi ce l'ha è da tenere conto, il Galaxy. Cioè, se avete un Galaxy in buone condizioni, tenetevelo stretto, non vendetelo, i ricambi, oddio, non so se si trovino, no, già si trovano, la scheda è quella del 3009, già si trovano, grosso modo. Bisogna un po' smanettare su internet, però bene o male, magari a caro prezzo, però li trovi i ricambi. E io ce l'ho infatti, non lo do a nessuno, l'ho preso da un rianimatore di Cagliari e avevo pagato 200 euro e boh, e rimane no che visso. Cosa doni? Il Galaxy. E cavolo, il Saturn, ecco. K e tiro, c'ha 6 bande. Mi ha dato che era perfetto, ma con grafica nuovo, la verità. E tale è, messo qua nel mobile, boh, sta così bene. Troppo grande, a me non piace perché non saprei dove metterlo, capito? Ce l'avevo anch'io, mi, quando ero in campagna quello lì. Quello era bello, cazzo. Il microfono che si adattava a quello era lo Shure. A tutti i curia, non veniva, a nessuno. Aveva una radio paurosa. Io ce l'ho lo Shure. Non l'ho già ancora attaccato, penso a po', perché mi devo procurare questo cavolo di stagno e domani ando con Caima da Bricome, se lo trovo con la pastetta incorporata e via. E se non ti compri la pasta salda? E Alice faccio così, boh, vediamo. Non ne voglio adesso, ui, non lo so, ho troppo fatta cosa qua stamattina in casa. Dato che la giornata era brutta, allora mi sono sbrigato un po' di cose, ho fatto qualche commissione stamattina da una parte all'altra e poi ho baciato giù un vicino. Anzi, dirò, ho fatto un bel lavaggio alla matrice, è asciutta la roba, già ritirata e messa a posto. Adesso cappuccio. E avanti già. Idem come sopra, che ho fatto lavaggio, speso, me l'ho ritirata, è tutto a posto adesso. Non ho più nulla di va. E vabbè. No, io sono uscito col cane stamattina, ho fatto un giro, volevo andarmene a Plattamona, ma poi ho visto la giornata e non mi ha ispirato. Perché non siete venuti qua, va? E non ho potuto fare nulla. perché ho visto la giornata un po' così e non ho bisogno di occuparmi. Sono occuparmi, rimane, pigliamo un po' di soli. Avanti, chiesa, buonasera. Ho letto, se avevate tanta voglia di lavare, perché non siete venuti anche qua a lavare, con la buonasera. Perché ognuno si deve fare il suo, ti. Buonasera. Io stavo cercando T, comunque c'ha ben entrato, stavo cercando uno che mi lavava la macchina, anche se sono in campagna, ma uno volonteroso, ma non ne ho trovato. Per carità, io ero invece, stavo divanando, ma mi sono andato adesso. Quindi scusate un po' la voce riposata, eh. Si sente, si sente. Rilassato. Sì, sì, va più. Ormai si inizia il tram tram, quindi bisogna un pochino ricaricarci. No, anche io me l'ho fatto, mi sono messo nel divano guardando il cellulare e mi sono drummito. Ottino. Dimmi. Sempre là, sì, sì. Ma io vado così a fare manutenzione, ma non sono fissurie. L'ho capito, ma più o meno ho detto, insomma, già sapevo che, e poi ti ho visto lì, ho detto sempre di sì, più o meno. Sì, sì, sì, sì. E vabbè, oramai diciamo. Sei di Gaza. Ok, bene, bene. Marcolino. Ciao Tino, ben entrato. Fate voi che sto cercando di capire come si programma questo affare col cavo universale anziché il cavetto suo, e se non vogliono 25 euro. Ciao Marco, anche a te, ciao. Io non ho fatto ascolto, e quindi sinceramente non so chi c'è. Avanti, vai Gianni. Ehi, siamo io, Natalino, Marco, tu, Tonino, poi non so se sei stato qualche donato, quando non c'ero perché doveva venire gente a casa, poi mi hanno chiamato che hanno avuto un imprevisto e quindi sono rientrato. Pure Emanuele c'era. Emanuele è scappato, è andato a mangiare e si è parlato un fumo. Non si beve mai che si video. Ogni volta che entra in frequenza le viene cane, magna, boh, non è dice con X dentro subito nuda, sparisce, vai, mangia e poi si appicciola. Ma scusa Tony, ma non ha l'antenna sopra il frigo? La torta era lì, adesso era nello sentitorio piccolino la messa. Adesso 9:10 arriva a me. No, io qua, sinceramente, l'ultima volta che l'ho sentito era basso basso, Santiago 5, ma proprio riuscivo a toglierlo fuori, se non c'era TRM. No, c'è un microfono preficcato, adesso esce bene. Buona radio, buon segnale, buon tutto. A proposito, come ti arrivate in radio, Tino? Sì, già vabbè, già vabbè. Cos'è quella radio che ho preso da lui? Cioè, no, questa è tutta un'altra cosa. Sto usando il Galaxy. No, già va bene, già va bene. E cappa. Anda bene. Natalino, ripetete. Ehi, dai, io mi assento. Perché è venuta gente, ci sentiamo alle prossime, dai. Ok. Buon cuore X, allora Natalino. Ci sentiamo, avanti Gianni. Ciao Natalino, ci sentiamo, dai. Buona carica. Tanto lo so che sta andando a mangiare. Ciao Natalino, ciao. Aggiungato cane di magnaghizio. Avanti Marco. Via. Niente da fare, dai. Fregato, fregato. Qua praticamente o prendi il cavetto originale o niente. Negli altri c'era il rinvio, negli altri c'era il T. Praticamente la presa esterna aveva un rinvio, un filippino che arrivava alla scheda madre. Questo invece li erano saldato sulla scheda madre, non c'è niente da fare. Va bene, pazienza. E pigliatelo, ma si può sintonizzare lo stesso dall'apparato. Sì, però già ha delle funzioni speciali attivabili o customizzabili solo da menu, da programmazione. Ah, ecco. Poi rimangono naturalmente nell'apparecchio. O devi attaccarlo ogni volta? No, no, lo programmi e rimangono. Puoi salvare anche il file. Puoi salvare il file con la configurazione che ti interessa, così non te la perdi. In caso di aggiustamenti, reset. Ho capito. Tutta cosa complicata, male. Sì, praticamente i baracchini di adesso sembrano quei B-banda, quelli HF, li devi configurare al computer. Cioè, per cose normali non c'è bisogno, accendi e parli, però per alcune funzioni speciali lo devi mettere al computer. Vabbè, non ne vale la pena, dai, ho capito, ecco perché non l'avevo fatto prima. Riprendi Tino. Cappa, ma vabbè, io sto utilizzando l'HR 5005 adesso, ecco chi ce l'aveva, porca miseria. L'altro giorno a Natale ne stavo parlando, io ricordavo che ce l'aveva Gianfranco Radiamatore, l'HR5005, ho detto uno ce l'ha, io mi ricordo che uno ce l'ha, ed eri tu invece. Sì, ti ricordi che mi avevi fatto mettere il bip più secco? Aspetta, abbassa una parte. Ma tipo Colt, frequenza alta e durata breve breve, no? Tipo Colt. Sì, sì. Così, hai sentito? Eia, sì, Natalino se l'è fatto simile, lo stesso. Però vedi, quello lo fai già dal menu. Però al computer ti puoi fare tipo 60 canali per banda, tipo se vai sul 45 non devi cambiare banda, ti segna direttamente 45. E quindi da praticamente 6x4, 24, sì, da 240 canali diventa 6x6, 36, 360 canali, però vabbè, non è che ne valga la pena. Quello che importa è qua, poi al limite il 45 per voi, la 5 per tutti. No, al limite l'ascolto dei miei membri, non vanno a togliere l'ascoltare. Figuriamoci negli altri, vabbè, no, per altri canali o altre radio. Sì, infatti, alla fine... Però vedi, i 10 metri almeno li puoi ascoltare, quelli già non è male. Sì, sì, sì, sì, va bene. Va bene, va bene. No, questo è un po' modificato, diciamo, non ho, gli ho fatto fare la modifica dei watt, gli ho fatto abbassare il watt da mezzo watt, poi va modulati sino ai 38-40 watt. Eia. Allora, che io ricordi, quell'apparato, potrei sbagliare, aveva due regolazioni, tipo una era alle potenze, diciamo, normali o più alte, e una era con la potenza bassa, aveva due regolatori di modulazione, ma potrei sbagliare, perché ormai li confondono con l'altro, capito? Sono quasi tutti uguali, la scheda è molto molto simile, per non dire uguale, 7009, 9009, sì, è simile, praticamente gli cambiano qualche virgola nell'apparato, qualche estetica, qualche funzione in più e meno da usare con i tasti, con le manopole, però alla fine siamo sempre lì, sempre quello è. Tonino, riprendi. PK, per questo è innescato tutto. Ecco, aspetta. Bene, bene, dai, che io mi sposto e voglio fare quella fragola con la panna, che l'ho comprata e mi piace troppo. Da un pochettino me la faccio. Vabbè, dai, buon proseguo, vi ascolto un po', vi ascolto. Ciao Tino, ciao Gianni, ciao Natalino e ciao Marcolino, eventuali ascoltoni. Ciao, ciao. Ciao Tony, non le mangiare troppo che ti fanno male le fragole. Ci devi mettere lo zucchero, farle aspettare un po' che si faccia lo sciroppo, però fatti male, ma l'asciutto è più buono lo sciroppo delle fragole. Scusate che mi devo allontanare, dai, sentiamo dopo magari. Ciao Tony, ciao. Ciao Tino, ciao. Cosa hai detto Tony che avete parlato in due? Ho detto no, solo fragole e zucchero è negativo, vorrei. Non ne ho, e qui non ne metto. E un po' di panna, e boh. Ok, lo proseguo. Ciao, ciao. Ciao, ciao. No, io le faccio, le lascio macerare un po', si forma lo sciroppo con lo zucchero e poi gli metto la panna sopra e sono buoni. È più buono il sughetto che fa che altro. Marco, boh, vabbè. Devo chiudere, c'è più nessuno. No, io sono qua già, che ero a farmi risciacquare il naso. Non c'è più nessuno. No, c'era Marco, se è andato via Tonino, Natalino, Tino, se ne sono andati tutti via. Poi non so se sia rimasto Marco, boh, ma non risponde, chissà cosa è successo. Ma tu devi uscire già. No. Uscire, devo uscire per portare il cane, boh, poi me ne ritorno a casa a mangiare. Ma hai detto c'erano i ospiti. Avevo gente, poi mi hanno chiamato che hanno avuto un contrattempo che non passavano oggi, passavano un altro giorno. Ah, capito. Ieri. Mi sto aprendo la soluzione fisiologica. Questa è la quarta bottiglia già. Grazie, 2 litri. Serve. Cos'è cazzo di uva? Serve. E non vi dire, dopo faccio tutto quanto quello che devo fare. Allora ho trovato l'antibiotico. Per un cambiare, dai, facciamo questo percorso anche, dai. Se voglio stare bene lo devo fare, se no un casino. Non ha giugana anche di vanni già. Poi a me quando mi levo mal di gabbo, boh, mi butto a terra. Io già metto di coglione. Però devo mettere dell'acqua calda, questa roba, per portarla a temperatura a 37 gradi. Vuole fatto una volta che è finito non te ne ricordi più lui. Anche io ogni giorno devo fare l'eparina in pancia per circa 30 giorni l'ho fatta, capito? Ogni giorno alla stessa ora la dovevo fare e quindi anche io già lo so, in più prendere delle pastiglie, insomma un po' di roba, è tutto antidolorifici, perché il dolore anche dopo che mi hanno operato ho sofferto molto. Mi è passato dopo i 3 mesi, ci sono stato 3 mesi io con i dolori. Immagino, vabbè, comunque, già passa, dai, casino a testa.